Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Ieri qui da basso, nel palazzo del Sole 24 Ore, è nato il nuovo campionato, la nuova stagione di Lega 2. Decimo campionato, cifra tonda, lo diciamo anche con, se ce lo consentite, con un po' di orgoglio. Ed è per questo che oggi è qui, lo saluto e lo ringrazio, il presidente della Lega 2, Marco Buonamico. Ciao Marco. Ciao Carlo, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma grazie a te. 800 24 00 24 per parlare con noi come ogni venerdì, come ogni giorno. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, Marco, un abbraccio, ci siamo visti un'ora fa, adesso ci sentiamo. Vi siete visti un'ora fa perché c'è l'ultima grande novità in ordine di tempo che riguarda la Lega 2, è che la Lega 2 raddoppia televisivamente, no Marco Buonamico? Eh sì, con un grande accordo con Sport Italia. Alle 5 della tarde, alle 5 della sera non c'è solo la corrida in Spagna, non c'è solo il tè nei paesi anglosassoni, ma c'è anche il basket su Sport Italia 2. La domenica? Sì, domenica alle 5. Quindi venerdì sulla venerdì Rai 20:30, sempre con Franco Lauro, sempre insomma con il nostro partner storico, ma siamo riusciti ad aggiungere questa perla e sarà un bel pomeriggio sportivo di basket su Sport Italia, perché subito dopo ci sarà la Lega Nazionale. Certo, quindi due dirette, una il venerdì e una la domenica. Tu c'entri qualcosa, coach? Ma più che altro sono contento, ok? Perché ovviamente noi, Sport Italia, con grande orgoglio e forse gonfiandoci un po', diciamo a tutti che noi siamo la TV del basket e quindi abbiamo la Lega Nazionale, abbiamo la Eurolega, adesso la Lega 2, ci manca solo mettere la Serie A, però ovviamente sto scherzando a dire questo qui, però siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi e ovviamente un lavoro, però una cosa che affrontiamo veramente con una gioia addosso. Senti Coach, ieri nel corso della presentazione un tuo amicone, cioè Valerio Bianchini, ha detto che tra l'altro è tornato in selle in Lega 2, c'è anche questo confronto diretto un po' a distanza tra voi due dopo molti anni. Comunque ieri ha detto che la Lega 2 è un po' come i mille di Garibaldi, hanno unificato l'Italia, hanno portato, la Lega 2 comunque porta il basket di alto livello in punti cardinali del nostro paese. La Lega 2 fa questo, a parte la grande serbatoio che lo è per allenatori, per giocatori, per arbitri, per società, hanno veramente tenuto in vita attraverso gli anni e soprattutto questi 10 anni che non si chiama più A2 bensì Lega 2, piazze importantissime. Vediamo che Brindisi a quest'anno la Serie A, che è tornata proprio dalla Lega 2, ovviamente io che sono consulente a Venezia, la Rai Venezia, spero che succederà a loro quest'anno perché è una piazza importante, ma loro veramente sono quelli che hanno tenuto in vita società, piazze, pubblici, altre cose davvero importanti. E quindi quando Bianchini dice questo qui, come sempre lui azzecca perfettamente la descrizione che fa, ha detto è una grande verità. Cosa ne pensi Marco? Beh, quest'anno ci presentiamo ai nastri di partenza con tante squadre nuove, parlando dei mille è chiaro che devo citare Barcellona Pozzo di Gotto, dove è andato ad allenare Cesare Pancotto sarà una grande realtà del nostro campionato, e poi c'è Forlì, un altro grande ritorno, tra l'altro città in cui ho giocato, c'è San Severo. È una novità. È una novità, tra l'altro San Severo, patria di un grande della pallacanestro italiana che è Walter Magnifico. E poi il ritorno di Verona. Verona, la Verona che ha vinto Coppa Italia, che ha vinto Coppa Korać, torna nel basket che conta. Sì, sono tutti temi chiave di questo campionato. Però io a Coach Peterson volevo chiedere questo: tu ricordavi la tua consulenza ormai da molti anni con Venezia, ma quando giocherete con Scafati, dove c'è Valerio Bianchini che fa il direttore generale, possiamo aspettarci qualcosa di interessante, Coach? È sempre Bianchini a lanciare le bombe a mano, io sono quello che risponde. Sono io la vittima di Bianchini, in poche parole, quindi aspetto le prime bordate da lui, poi ovviamente devo drizzare tutto, ma lui è troppo creativo in queste cose qui, io cerco di difendermi, sono come il pugile chiuso in un angolo con un peso leggero con un peso di massimo che mola dei cartoni. Cercherò di schizzare tutti i colpi che mi vengono molati. Chi ci crede? Sai, il coach, che è anche un appassionato di box, sa benissimo che quando un avversario ti incalza all'angolo c'è sempre il montante, l'uppercut, che è un è qualche cosa che lui sa tirare bene. Cercherò di difendermi, questo sicuro, ma sarà bellissimo. Coach, per chiudere, un campionato per appassionati e per intenditori, questo, no? Grandi americani abbiamo visto negli ultimi anni in Lega 2. Mi viene in mente uno che stasera prova a buttare fuori Caserta già dall'Eurolega, no? Kit Langford, che gioca nel Khimki, che giocherà contro Caserta questa partita di ritorno. Certo, ma è chiaro, Langford è veramente la chiave della loro squadra. Infatti noi fra qualche paio di ore qui su Sport Italia, io e Guido Bagatta, faremo la telecronaca della partita Khimki-Caserta. Ovviamente Khimki ha vinto l'andata a Caserta 77-74 e quindi sono svantaggiati, perché penso che l'anno scorso lì a Mosca Khimki avrà, in Eurolega, avrà perso una partita in casa. È stata una sfortuna per Caserta beccare proprio questa squadra al primo turno. Avessero beccato un'altra squadra passando con loro, magari affrontando una squadra più forte, avrebbero avuto più carica, più fiducia, più sicurezza, più confidenza, non so come dire, però questa veramente di tutte le squadre che potevano pescare, la peggiore assolutamente era Khimki, che ha fatto l'anno scorso l'Eurolega con pieni meriti, che è stato finalista in Russia l'anno scorso, quindi è un peccato proprio per Caserta, ma le dita sono sempre incrociate, perché noi Sport Italia vogliamo più squadre italiane possibile. Me lo immagino, tifo indemoniato per Caserta, non solo Sport Italia, ma da tutta Italia della pallacanestro, che quattro squadre in Eurolega, insomma, non ci farebbe schifo. Assolutamente. Coach, grazie, ci sentiamo venerdì. Grazie mille, ci sentiamo venerdì. Marco, un abbraccio. Okay? Un abbraccio, coach. Ciao. Grazie a coach Dan Peterson. Dice, parlavo di americani, poi ne parliamo più con maggiore profondità e cognizione di causa. Però Marco, ieri Meneghin, che poi sentiremo anche a parlare di Lega 2 come laboratorio non solo di italiani, ma grandi americani che passano dal tuo campionato per salire fino all'Eurolega, Kit Langford, ma non solo. Sì, questo sappiamo che succede. Diciamo che le nostre squadre e i nostri allenatori hanno l'occhio lungo, sanno pescare, pescano molto bene, soprattutto tra gli americani giovani, cosa che è molto più difficile fare, cercando di coniugare le esigenze tecniche con quelle dei budget, che ovviamente nel secondo campionato professionistico non sono uguali a quelli della Serie A. Certo. Però, visto che il nostro numero di americani è minore di quello, e giustamente minore di quello della Serie A, è molto importante la componente italiana. Questa è una componente che può fare la differenza. Abbiamo italiani di grande esperienza, vuol dire, non so, da German Scarone a Gregor Fuchs, adesso ne cito solo due, ma ce ne sono tantissimi, Chiacic, eccetera. Però ci sono dei giovani interessanti che vengono nel nostro campionato perché si confrontano con i giocatori americani, si confrontano con un'organizzazione professionistica, e questo servirà tanto per farli crescere. Palla spicchi. Ecco che torniamo con noi Marco Bonamico, presidente della Lega 2, campionato che ieri, ripeto, è nato proprio qui nel Palazzo del Sole 24 Ore. Come ti sei trovato qui da noi? Beh, insomma, è stato emozionante salire su quel palco, tra l'altro disegnato da un architetto genovese come me, ma bellissimo, emozionante, soprattutto per la quantità e la qualità della gente che era presente. Sì, e anche per la madrina. Lasciamelo dire, Angela Tuccia. Beh, Angela ci ha fatto questo regalo di essere con noi, e la sua presenza è stata particolarmente apprezzata, oltretutto perché è un ex ufficiale di campo di basket. E per quello l'abbiamo presa. Esattamente, no? Per quello l'abbiamo solo per presa. Quello. Senti, invece, ieri nel corso della presentazione hai, insomma, parlato di una delle novità di questo campionato. Non mi sento di rubricarla tra le novità positive, non lo so se possa diventarlo. Con elegante ironia, lasciami dire, hai spiegato il meccanismo un po' perverso e, aggiungo io, sportivamente orrendo della wild card. Mi ritocca? Vado? Tu, va bene. Tu. Allora, Beh, in realtà la perversione è abbastanza semplice, nel senso che la quindicesima classificata del campionato di Serie A avrà la possibilità, pagando 500.000 euro, anzi versando 500.000 euro alla seconda classificata del campionato di Lega 2, di evitare la retrocessione, quindi di rimanere a giocarsi il campionato di Serie A, a cui non avrebbe avuto più diritto per classifica, ai danni, si fa per dire, però ai danni sportivi, tra virgolette, della seconda classificata del campionato di Lega 2. A noi questa cosa non è piaciuta dall'inizio, però voglio dire, c'è stata imposta, e quindi non è che possiamo, non abbiamo potuto fare altro che fare buon viso a cattivo gioco. È chiaro che questo ci costringe a modificare la formula del nostro campionato, ho cercato di spiegarlo ieri, provo a riassumerlo. Nel caso ci sia l'applicazione della wild card, quindi una sola promozione, playoff, quarti, semifinali e finali al meglio delle cinque. Nel caso invece non ci sia la wild card, ovvero la quindicesima classificata non abbia la possibilità o la voglia di pagare questa somma, questi 500.000 euro, succederà che noi non giocheremo i quarti praticamente, ma faremo due gironi diversi, due tabelloni diversi, uno giallo e uno blu, dove giocheremo semifinali e finali al meglio delle sette partite, e le due vincitrici dei due gironi andranno in Serie A. Il problema è anche quello delle date, perché certo, ovviamente si saprà a giochi in corso, e questa è il massimo della perversione, se mi consenti, perché parti sì, per un viaggio, ma non sai bene quando arrivi al bivio che cosa succede. È proprio così, stiamo partendo per un lungo viaggio, come una canzone molto di moda adesso, però la lunghezza del viaggio sarà determinata da alcune cose, provo a spiegarla. Nella convenzione tra Serie A e Federazione Italiana Pallacanestro è stata messa come deadline per la decisione della quindicesima classificata di Serie A se attivarono la wild card la fine di maggio. Questa è una data che per noi è troppo avanti, perché la nostra stagione regolare finisce alla fine di aprile. La stagione regolare della Serie A finisce il 12 di maggio. Quindi noi abbiamo necessità. È chiaro che la cosa migliore sarebbe sapere come dovremmo giocare prima dell'inizio dei playoff. Certo. Qualora questo non fosse possibile, anche se noi proveremo magari a aggiustare il nostro calendario in qualche modo, ma non è che possiamo stravolgere completamente la nostra stagione, noi dovremmo saperlo comunque al massimo attorno al 20 maggio, e quello già ci creerebbe molti problemi. Però diciamo che come primo anno di applicazione della wild card forse bisogna cercare di fare qualche aggiustamento, perché quando sono stati pensati i tempi forse non sono stati pensati tenendo conto delle esigenze, certo, di tutto il movimento. Certo. Primo ascoltatore di oggi, 800240024, vi ricordo il numero verde, ci sono anche i messaggi, 349-238-6666, c'è già chi chiede lumi e pareri su questa promozione diretta playoff campionato anomalo. Caro ascoltatore, abbiamo già risposto, poi rispondiamo anche su Casale e sulle varie squadre su cui ci chiedete lumi. Romano, da Latina, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Dica. Abbassi la radio, perché sennò sentiamo un ritorno in cuffia, grazie. Certamente, chiedo scusa. Volevo chiedere a buon amico, io siamo dal sud del Lazio e tengo per Roma e per Veroli. Volevo chiedere, ma cosa manca sia a Roma che a Veroli per fare quel piccolo passo in avanti che gli permetterebbe di ambire a qualcosa di più prestigioso? Ma a Roma non posso risponderti, a Veroli credo che non manchi nulla, l'ha dimostrato vincendo due Final Four consecutive di Lega 2, giocando una finale straordinaria secondo me come livello tecnico e di pathos con Sassari, giocando anche l'anno scorso partite, me ne ricordo due anni fa, una Varese fantastica. Io credo che Veroli sia una delle favorite di questo campionato. Perché su Roma non rispondi? Beh, perché non è il mio campionato. Capito. Roma, diciamo che Roma ha fatto un grande acquisto che non andrà in campo, ma sarà sicuramente fondamentale. Dietro la scrivania, Ma secondo me Boscia sta dietro la scrivania, soprattutto sopra la scrivania, davanti alla scrivania, insomma, fantastico. Senti, ma quando in finale ai mondiali, come l'hai visto questa? Cioè, è un allenatore contro cui hai giocato, sì, da giocatore mille volte. Però ti dico, capolavoro. Boscia ha portato una squadra di giovani con un paio di veterani, e forse qualche veterano magari l'avrebbe anche lasciato a casa volentieri, permettimi la battuta, però con, e li ha portati a giocare una pallacanestro secondo me fantastica, come dedizione, come preparazione, come voglia. Lui era il sesto difensore della squadra quando difendevano, era il sesto attaccante quando andavano in attacco. E considerato anche che ha avuto gravi problemi di salute, Boscia deve essere, è un idolo, è un mio idolo sportivo. Senti, visto che non vuoi parlarne, io te ne faccio parlare del campionato del piano di sopra. No, perché questi sono, sai, sono i momenti delle dichiarazioni di intenti dell'attacco a, o almeno presunto, a Siena, sono tutte in fila, Roma stessa, Milano, Virtus Bologna, Treviso, tutte quelle che vuoi, anche Cantù io ci metto, perché Cantù, attenzione, ieri ho visto Bruno Arrigoni e ho chiesto lumi sulla squadra, che poi non è neanche tanto nuova perché ha cambiato il playmaker essenzialmente, poi ha avuto la forza e la bravura di riconfermare quelli dell'anno scorso. Comunque sono tutti lì in fila a bussare alla porta di Siena per vedere se succede qualcosa. Che succeda qualcosa io non sono così convinto. Ma guarda, l'abitudine a vincere è qualcosa di importante. L'abitudine a giocare da posizione vincente, sfide che contano, è una delle... una delle grandi qualità di Siena. Siena probabilmente ha fatto una scelta diciamo di puntare di più sugli giocatori italiani, e io apprezzo questo. Forse ha abbassato un pochino il budget, probabilmente per competere in Eurolega doveva alzarlo talmente tanto che sarebbe stato obiettivamente difficile. Sulla carta si aprono spazi competitivi per altre squadre, e questo per, sicuramente può fare il bene del campionato. Però per vincere bisogna essere abituati a lottare per quei livelli. Fino adesso tutti sono arrivati al massimo secondi negli ultimi anni. Sì, senza discussione, peraltro, sì, sul fatto che sarebbero arrivati secondi. C'è Francesco da Pistoia, ad esempio, che scrive: occhio a Frassinetti e Cutolo tra i giovani del campionato di Lega 2. Ha parlato anche Dino Meneghini ieri qui presente, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, come ben sapete. Sentiamo sulla Lega 2 laboratorio. Cosa migliore che hanno fatto è confermare Marco Bonamico come presidente. La Lega 2 si conferma ancora una volta un campionato, non dico laboratorio, ma un laboratorio di grandissimo livello, dove si uniscono competenza, professionalità, progettualità, spazio ai giocatori italiani, buoni giocatori stranieri e città con palazzetti pieni di gente appassionata che segue la squadra. Quindi penso che questa sia la strada giusta da seguire, continuare a seguire questa strada, continuando però a insistere sempre di più su quello che è l'identità dei giocatori italiani, quindi aumentare il numero di giocatori italiani dove è possibile, per permettere che questo laboratorio dia dei risultati alle società, prima di tutto ai giocatori e di conseguenza anche alla nazionale. Così Meneghin. Oltre ai ringraziamenti che devo dire per quello che ha detto, beh, noi quest'anno abbiamo inserito l'obbligo di 3 giocatori under 24 in ogni squadra, e già questo vuol dire in un campionato professionistico è una cosa molto molto nuova. Però sono d'accordo che forse in futuro bisognerà rivedere la normativa degli stranieri, anche per il fatto che sta succedendo, c'è un fenomeno abbastanza strano e secondo me un po' da stigmatizzare nel basket in questo momento. Ci sono tanti giocatori di scuola statunitense che molto rapidamente prendono delle cittadinanze, chiamiamole europee, e con questo riescono a bypassare le norme che limitano fortemente l'uso degli extracomunitari. Ora, forse in futuro sarà meglio ragionare, credo, e differenziare lo status di giocatore italiano e giocatore straniero, senza addentrarsi nel varie nazionalità. Sono d'accordo con te, Marco, anche perché il mercato dei passaporti è un fenomeno ormai conclamato. Vai in Macedonia, lo compri, torni, giochi da comunitario, giochi da passaportato, giochi con tutti questi vari sgami che con lo sport non c'entrano nulla. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi torniamo a parlare anche di questo argomento e anche di italiani, perché io continuo ad insistere su questo punto. A livello professionistico io non distingo tra italiani, stranieri, polacchi, bulgari, distingo tra giocatori professionisti e quelli che non hanno la stoffa per esserlo. Palla spicchi. Dunque torniamo con Claudio da Ravenna, un ascoltatore che è in linea con un sacco di messaggi tipo questo: signor buon amico, ma come si fa a giocare tanti mesi per nulla? La promozione diretta ci voleva, magari fare una fase a orologio come una volta per allungare il campionato, Nicola da Carpineti, oppure un altro, Gabriele da Chieri, provincia di Torino. Per Marco buon amico, che cosa si sta facendo a livello giovanile per sfornare talenti come fa tutta la ex Jugoslavia? Parto dalla seconda. In ex Jugoslavia c'è una situazione sicuramente diversa, c'è una situazione più facile da un certo punto di vista. Intanto bisogna che i nostri giovani abbiano la voglia di giocare, di andare sui campi, di allenarsi anche quando non c'è l'allenatore, di andare a giocare anche le partitelle. Vedo i playground sempre un po' vuoti adesso. Senti, racconta la leggenda. Racconta la leggenda. Il tuo debutto in Serie A, avevi 17 anni, giusto? 16. 16. Prima palla schiacciata, difesa schierata. Sì. Racconta la leggenda. Io oggi ne vedo pochi con quegli occhi lì. Prima palla in Serie A, entrano e giocano con quella voglia, con quell'amore negli occhi. Ma guarda, ne vedo tantissimi. Forse è stato un atto di grande incoscienza anche, perché giocavamo contro l'Olimpia Milano, quindi però ma ci vuole o no per diventare un giocatore? Assolutamente, è fondamentale. Anche i miei amici allenatori dico spesso, allenare chi ha poco talento o chi ha poca voglia o chi è un soldatino, voglio dire, è facile. Allenare chi ha il fuoco negli occhi a volte è più problematico, però questi sono quelli che a noi piacciono, cioè quelli che ti fanno vincere le partite. Insomma, parliamo, non so, degli Enzo Esposito e dei Gentile, visto che prima parlavi di Caserta, o dei Sandro Dell'Agnello, quelli che vogliono vincere. Meneghin di ieri, sempre sulla questione giocatori italiani. Con tutto il rispetto per i giocatori stranieri, però dobbiamo dare assolutamente un'identità al nostro campionato. Il nostro è un campionato italiano, dove c'è spazio assolutamente per i giocatori stranieri, perché portano spettacolo, tecnica, la gente si appassiona. Però dobbiamo cominciare a pensare a costruire ancora di più i giocatori italiani. Se non costruiamo giocatori italiani, fra 10, 15 anni, 20 anni la nazionale italiana non ha più senso. Così Meneghin, che parla naturalmente da presidente federale. Io continuo a ripetere, ad aggiungere, vogliono uno spazio, però devono meritarselo, perché stiamo parlando sempre di professionismo. Ma guarda, oggi è stata presentata anche la Lega Nazionale, che dall'anno prossimo giocherà con 7 giocatori under 23 per squadra nel più alto campionato professionistico. Questo secondo me è una buona partenza, perché se ne hai 7 sei costretto a farli giocare. E allora quello può diventare l'ultimo trampolino verso il professionismo. Chiamiamola una specie di NCAA italiana, potrebbe Lega diventarlo. Di sviluppo. Esatto, potrebbe diventarlo. E poi nei professionisti è chiaro che noi chiediamo di essere più liberi nella scelta dei giocatori, proprio perché sono campionati professionistici. Però insomma, diciamo che si può trovare, secondo me, un giusto mezzo. Claudio, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Faenza, seguo l'Andrea Costa Imola Laget e il club atletico Faenza nella pallacanestro femminile, campionato di A1. A buon amico chiedevo questo: se è verificata la contemporaneità tra queste due squadre, che come saprà condividono lo stesso palazzetto, il Palamocador di Faenza, la contemporaneità di bene 5 incontri casalinghi. Ovviamente la Lega 2 ha la priorità, il basket femminile deve anticipare la partita, ovviamente perdendo pubblico, incassi e insomma generando qualche piccolo malumore tra la società. Non è possibile riuscire, dato che il calendario tra l'altro della Lega femminile, della 1 femminile, esce prima, a evitare queste situazioni, ma proprio per il bene di tutto il movimento della pallacanestro. Bisognerebbe fare un sacco di palazzetti. Intanto questo, bisognerebbe fare un sacco di palazzetti. Poi se facciamo la gara chi esce prima col calendario, mi sembra che sia una polemica che lascia un po' il tempo che trova. Invece, parlando di cose credo fattibili, stiamo lavorando, e le dico con la grande disponibilità dell'Andrea Costa Imola, in una di queste gare dove Faenza tornerà da una trasferta, giocherà in casa, adesso mi perdoni ma mi coglie un po' la sprovvista, non mi ricordo esattamente con chi giocherà, ma dopo deve fare una trasferta di Eurolega, e noi in quel caso stiamo pensando a fare un basket day maschile e femminile e far giocare tutte e due le squadre nello stesso tempo, nella stessa giornata, ovviamente con uno spazio, un orario tra i due. Questo è quello su cui stiamo lavorando. Credo che il basket non debba lavorare per compartimenti stagni, ma quando si può, insomma, darsi una mano invece di guardarsi in cagnesco. Bravo Marco, ma riesco a trovarti impreparato su un punto? Sicuramente. Ad esempio la nazionale. Andiamo agli europei. Qui è un'altra cosa che ho già detto le settimane scorse, mi è piaciuta poco questa. Beh, io sono contento, prendiamo, mettiamo in tasca, però questo cambiamento dei regolamenti a giochi in corso, parlando contro i nostri interessi, a me non è piaciuto. Beh, diciamo che eticamente condivido. Siamo sulla linea del wild card. Esatto, quindi eticamente condivido. Dal punto di, però egoisticamente dico, abbiamo un presidente della federazione che ha ottenuto qualche cosa di importante per il movimento. Voglio fare un passo indietro. Non condivido invece questi round di qualificazione estivi messi in piedi dalla FIBA, perché secondo me esulano completamente da quello che è un contesto di basket professionistico. Allora bisogna che ci capiamo chi siamo e cosa vogliamo fare. Potevano farlo benissimo, ma invece di fare andare avanti le squadre su e giù per l'Europa, dalla Finlandia a Israele, potevano fare mettere quattro squadre in una città, giocare un round lì, quattro partite, e le prime due sarebbero andate. Meno spese, più interesse, sicuro, creazione dell'evento. Mi sembra che insomma ci sia molto da lavorare su questo. Che poi si giochi un torneo e alla fine ti dicano abbiamo scherzato, beh, credo che questo sia poco serio. Poco serio naturalmente. Adesso però gli europei ci siamo, vietato illudersi secondo me, perché ci vorranno innanzitutto i tre nostri americani, i ragazzi dell'America di sicuro. Siamo alla ricerca disperata di un playmaker e di un pivot, insomma sono i soliti temi. Guarda, ti dico una cosa, se non verranno i tre dell'NBA, sì, Lega 2, io personalmente metterò qualche cosa per andare a prenderli in aereo. Quindi, e credo che andarli a prendere, credo che molti verranno con me. Non dimentichiamoci che ci sono giocatori come Nowitzki, per fare un esempio, o Gasol, che pur essendo grandi stelle dell'NBA hanno dato tantissimo alle loro nazioni. Sì, e senti, Gallinari è passato alla Lega 2, Melli è passato alla Lega 2, pare sia la prossima grande cosa del next big thing, come dicono gli americani. Adesso di giovani bravi, ieri qui c'era Renzi, ce n'erano degli altri, Simoncelli, quali e quanti giovani italiani bravi individui già in Lega 2, cioè già maturi per essere qualcosa di importante? Guarda, con i giovani è molto difficile, perché un campionato può cambiare tanto. Secondo me ce n'è, due nomi li hai fatti. Io ho visto giocare un ragazzo giù a Scafati che onestamente non ha fatto una grande partita quando l'ho visto, però mi ha dato, non so, come ha avuto l'impressione che gli occhi fossero quelli giusti, Portanese di Scafati. Però tecnicamente ti posso dire, non l'ho visto, non li ho visto fare, li ho visto fare un tiro solo, però ho visto qualcosa, potrei sbagliarmi. Reggio Emilia ieri ha preso l'assegnone, perché è quella che fa giocare di più i giovani. Assegnone che crescerà, perché grazie all'accordo con la federazione, che devi sapere che per giocare nel campionato italiano si paga un premio che si chiama premio NAS, che è un premio che poi viene girato alle società che hanno fatto settore giovanile, che hanno cresciuto quel ragazzo per poi dargli la possibilità di giocare professionista. La cosa curiosa è che noi paghiamo quel premio NAS anche per gli stranieri, che ovviamente nessuna delle nostre squadre ha allevato. E allora la federazione ritornerà alla Lega il 50% di quel premio NAS che le nostre società pagano. Noi non lo ridaremo alle società così d'amblè, ma con quel danaro premieremo le società che faranno giocare di più gli italiani e che faranno che spenderanno danaro in investimenti per il settore giovanile e per la scuola. Mi sembra tutto appropriato, caro Marco. Vediamo se riesco a trovarti impreparato su qualche punto. Sarà la mia missione da qui alla fine del programma. Intanto, ieri ho visto ripassare sui monitor nel corso della presentazione immagini della Glaxo Verona che alzava le coppe, Roberto Dalla Vecchia, ma sì, Rascheni, eccetera, eccetera, eccetera. Un giovanissimo Ale Frosini, ieri quello un po' meno giovane. Anche Galanda c'era. Galanda. Paolo da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Manca Bonora all'appello. Bonora lo aggiungiamo volentierissimo. Dunque, sabato sera sono andato a vedere l'amichevole della Tezenis e ho visto questo gigante che si chiama Renzi in mezzo all'area con la difesa tutta schierata, lui senza nessun problema, legnate che si prendeva, è andato su tranquillo due o tre volte e è andato a canestro. Aveva proprio quello che diceva buon amico, il fuoco negli occhi. Sì. Poi è partito, ha fatto tutta, l'ha richiamato in panchina l'allenatore, ha dato il 5 a tutti e poi è andato fino in fondo da Fadini, che era là che applaudiva. Mm. E chi conosce Fadini non lo vede tanto spesso applaudire. Sì, anche queste belle dichiarazioni di intenti. Ovviamente facciamo il tifo per Renzi, di sicuro che è un prospetto del basket italiano. Resta da vedere se questo succede poi anche quando dentro al palazzetto ci sono 6.000 gradi e la tensione è altissima. Questo è vero, però io credo, ho colto un po' di emozione nella voce di questo spettatore, quindi spero che riesca a trasmetterla a tanti veronesi, perché insomma il Palazzo dello Sport di Verona è molto grande e noi vorremmo vederlo pieno. Sì, e quanto a Renzi cosa dici? Ma Renzi è insomma alle soglie della nazionale, quindi un giocatore estremamente interessante. Non ha avuto molto tempo in campo alla Benetton, sicuramente Verona sarà per lui un passo molto molto importante. Dovrà dimostrare sul campo, avrà tempo, avrà spazi, partirà in quintetto, credo che insomma dipenderà solo da lui. Palla spicchi. Torniamo insieme, 800 24 00 24, abbiamo ancora un pochino di tempo se volete intervenire. Intanto Marco, vediamo se riesco a trovarti impreparato almeno sulle nuove tecnologie. Non credo. Sì, può darsi. No, perché noi siamo molto attenti ai trend del momento. Una cosa molto trendy, molto cool secondo me, è stata quella del pallone. Non c'entra nulla con la tecnologia, però è una chicca quella del pallone dell'NCAA. Beh sì, abbiamo un nuovo fornitore di palloni che è Wilson. Wilson è una marca storica per chi segue il basket americano, per chi gioca a golf, per esempio, per il tennis. Non so se ti ricordi come no? Ecco, quel mancino terribile americano, sì. Connors giocava con quella Wilson di sì, metallo, sì. Terrificante. Sì, no? Sì, esatto. Sì, sì. Beh, no, siamo molto contenti, è un grande acquisto per noi, è un partner che ci è stato vicino anche in un'iniziativa che troveranno gli amanti della Lega 2 sul nostro sito tra qualche settimana. Abbiamo messo tutto il nostro yearbook su una piccola card, una carta di credito che diventa una penna USB, e lì dentro ci sono tutti i profili dei giocatori, ci sono tutte le statistiche, quello che è bello è che sarà aggiornabile inserendola solo nel computer. Ma abbiamo pensato anche a quelli che stanno a casa e non possiamo mandare la card a tutti, quindi faremo delle applicazioni che uno potrà scaricare sul computer, sul proprio smartphone, senza fare pubblicità, anche ovviamente su iPad, sì, iPod, sì. iPhone eccetera, e potrai avere lì con te tutta la Lega 2 in qualsiasi momento aggiornabile, vedendo storie dei giocatori eccetera. Basta con la carta insomma? No, basta no, perché la carta comunque, vuol dire, un bel libro è sempre un bel libro, però insomma questo ti può seguire dappertutto e occupa poco spazio. Sì, ieri quando avete distribuito appunto questa chiavetta, questa tesserina, ho detto meno male che stavolta ci danno dei soldi. Sì, infatti sembra un banco, ma te l'ho anche detto, ma non vi dà soldi, vi dà tanta Lega 2. Con i giochi elettronici invece, quelli sul basket, come sei messo? Non vorrei svelare troppo, però ci stiamo lavorando. È chiaro che i giochi elettronici sul basket si trovano tutti, si possono downloadare, ad esempio con un iPhone ne trovi 5.000 con tutte le maglie delle squadre. Secondo me non ce n'è uno che si stacca dagli altri. Ora, noi non vogliamo inventare niente. Penso invece che una cosa molto interessante da fare sia un progetto per valorizzare l'immagine dei giocatori, l'immagine delle società. Sai, sono convinto che anche tu da piccolo facevi la raccolta di figurine, no? Figurine sì. Esatto. E allora noi stiamo pensando a una raccolta di figurine diversa, che non sia una raccolta, diciamo, cartacea, ma una raccolta da poter fare sul web, scaricando gratuitamente le figurine, facendoti il tuo album, poi magari cliccherai la figurina e chissà, potrà anche venire fuori un filmato. Ma pensa a te, stai attento perché abbiamo in linea anche un esperto in materia, che... Nostro amico storico di Radio 24, non propriamente di programmi sportivi, ma di tecnologia di sicuro, Marco Giannatiempo. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te e al tuo ospite. Ero veramente incuriosito dal discorso figurine online. Hai sentita questa? Guarda che è un vulcano, Marco Bonavio. Sì, ma è già stato depositato, non ti affannare. No, no, a livello di appassionato, non commercialmente. Senti, Marco, invece sei stato alla presentazione di ciò che delle ultime evoluzioni in materia di giochi, in tema di basket. Sì. Diciamo Siamo alla versione 2.0, anche 3.0 del basket a Madrid, dove ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare Bargnani, il nostro Bargnani, e Calderon. E Calderon effettivamente mi ha dato dei momenti di felicità, perché non è alto come tutti gli altri, e dunque ho detto anch'io avrei potuto giocare a basket, sì, quando l'ho visto. È andata bene a Lapo quel giorno che gli ha rubato la palla allo Staples Center. Tutti lo ricordano per quel fatto, anche i giornalisti che erano presenti all'evento lo ricordavano per quel fatto. Non è bellissimo questo fatto, no, però è bellissimo. Tutti lo sappiamo, un grandissimo, sì, giocatore. Sì, sì, è stato bellissimo, al di là di tutto, è stata una scena calda della scorsa stagione sportiva. Invece questo gioco nuovo che è stato presentato, che cosa ha di diverso rispetto al passato? Quali sono le ultime evoluzioni? Il gioco si chiama NBA 2K11 ed è un gioco di basket, appunto, e ha di diverso che ha un realismo, Bargnani ha detto addirittura esasperato, è il suo gioco preferito. Per questo lui innanzitutto non è il testimone del gioco, questo va detto, il testimone è niente di meno che Michael Jordan, dunque di questa edizione veramente speciale del videogioco di NBA 2K11. Lui è un appassionato, innanzitutto passa delle grandi ore a giocare a basket assieme al fratello, e io ho visto una cosa che forse neanche tu hai visto, perché ho visto la stagione appunto 2011 giocata dal buon Bargnani, che naturalmente non gioca con i suoi Raptors di Toronto, ma lui ha scelto Los Angeles, ecco, in questo caso ha scelto Los Angeles e si è fatto un bel pezzo. Ma è vero che poi la squadra che vince il titolo alla fine del gioco va da Obama, è presente anche lui questo gioco? Assolutamente sì, magari esiste un easter egg, come li chiamano quelli dei videogiochi, dunque le uova di Pasqua all'interno del gioco, magari ci sarà anche un Obama all'interno di NBA 2K11. Comunque, scherzi a parte, si è divertito tantissimo a fare questa cosa e è venuto fuori anche tutto il suo essere giocoso. Andrea, tu lo conosci bene, è molto timido e riservato. In questo caso, grazie anche al discorso del videogioco, devo dire che ha fatto in tutti i casi dei numeri veramente spettacolari. Ho trovato una persona molto matura, molto interessata anche a quello che stava facendo a livello professionale e ludico, e poi ci ha anche svelato un segreto. Ci ha detto che lui le partite, prima di salire sul parquet in maniera fisica, proprio una sera prima, se le gioca col fratello, sì, e molto spesso i risultati collimano. Ecco. Sì, eh? Grazie Marco. Alla prossima. A te, ciao, buon lavoro. Se collimino non lo so, secondo me fanno apposta. Sì, questo va bene, però io ci crediamo, ci dai. Crediamo. Io non sono capace di giocare ai videogiochi, te lo dico francamente. Però se ci fosse un Venezia Scafati Bianchini Peterson me lo farei. Più che altro per ciò che ci sarà intorno. Beh, secondo me sarebbe un bellissimo spettacolo e mi auguro, guarda, sicuramente quando ci sarà Scafati in televisione faremo di tutto per avere Peterson come commentatore. Tanto noi abbiamo una voce di Bianchini di ieri, sentiamo che cosa ha detto il Vate, tornato in sella nel basket, insomma, in pianta stabile, in maniera operativa e attiva. È una prospettiva di stagione fantastica, perché tantissime squadre si sono rinforzate, si sono rinnovate e soprattutto l'hanno fatto molte, anche compresa la nostra, Scafati, nel segno di promuovere i giovani, di affiancare i giovani italiani a giocatori più esperti con il giusto corollario degli americani, quindi un grande equilibrio sotto questo profilo che darà frutti anche dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista spettacolare, quindi questa come prima cosa. E poi naturalmente con questa riduzione a una sola promozione la lotta sarà terrificante per arrivare lì. Ci sono molte squadre attrezzate e vedremo nel corso della stagione cosa succederà. Così Valerio Bianchini, che è certamente uno dei valori aggiunti, credo, di questa stagione e della Lega 2 e del nostro basket in generale. Io, Marco, volevo chiederti, prima di chiudere, abbiamo ancora meno di un minuto, c'è un ascoltatore che se non rispondo stavolta mi picchia, perché mi ha mandato, Michele di Valenza, mi ha mandato questo messaggio puntualmente tutte le trasmissioni, vuole un parere su Casale Monferrato. Beh, Casale ha cambiato tanto quest'anno, una squadra più giovane probabilmente, però molto motivata. Marco Crespi e Dani, uno degli allenatori di punta del nostro campionato, Casale sicuramente è un'altra delle favorite. Senti, impegni permettendo, noi ti aspettiamo di nuovo qua. Quando volete, è una gioia. anche per noi, Marco Buonamico. Grazie davvero. Noi chiudiamo qui ringraziando Luca Rinaldi per il lavoro in redazione, Filippo Aureggi in regia. Con lo sport, naturalmente, ci sentiamo nel weekend, domani dalle 5 alle 6, domenica dalle 5 alle 7, poi quando riprenderà anche la Serie A di basket, quindi dal 17 di ottobre, se non ricordo male. Torna anche l'appuntamento per la Serie A e per la Lega 2 la domenica sera dalle 20.30 alle 21. Sentiamo nel weekend, buona giornata a tutti. Palla spicchi.